Thank you. Avete appena ascoltato Buongiorno Mondi, io sono Lorenzo D'Erasmo e ci vediamo domani alle 10, sempre qua, a Sora di Virus. Buona giornata!